c'ho i capelli lunghi, sono fatti miei. A casa mia la stufa non ce l'ho, ognuno si riscalda come può. Ehi, si comprano giornali per sapere se è nata un'astronave o morto un re. Io mi ci faccio degli aquiloni e mando su nel cielo le informazioni. Ehi, ho un amico matto che si chiama Sam, che dice a tutti quanti sono un tram. Coi patini a rotelle lui va su e giù e chiede alle ragazze di salire su. Avete avuto una delusione, non c'era Topo Gigio alla televisione. Siccome a Topo Gigio piace lo yeah yeah, in quel momento stava al Piper Club con me. Ehi, se mi sento solo me ne vado al bar, dove c'è un amico che mi sta aspettando. Lui non fa discorsi ma sa cantar, lo chiamano jukebox e vive giù nel bar. Ehi, questo vecchio mondo non cambia mai, bisogna rinnovarlo, che ne dite voi? Dovremmo lavorare solo quando piove e appena viene il sole far canzoni nuove. Solo le camicie a fiori, non sono mica pazzo, no signori. In ogni stagione di giorno e di sera mi sono messo addosso la primavera. Ehi, la gente ride, non capisce mai, se ho i capelli lunghi sono fatti miei. Io dico quel che penso, vi piaccia o no, ognuno si diverte come può.